Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 00240024, la trasmissione che non avrei mai pensato di dover fare, anche se sono rotto a tutte le intemperie, a tutte le esperienze. La trasmissione sulla trasformazione putativa apparente di una casa della politica, di una casa delle istituzioni, la casa del Presidente del Consiglio, in una specie di bordello. Poi bisogna vedere bene come stanno le cose. Perché? Perché e ne parleremo direttamente con le fonti, con i giornalisti, tra quelli più importanti, che stanno facendo le inchieste sulle donnine allegre, si diceva negli anni 50, e non è un linguaggio molto diverso da quello che purtroppo usa spesso l'avvocato Ghedini quando parla di grandi quantitativi gratis disponibili di signorine per il Premier, per contestare l'idea che siano state pagate. Ma voglio dire, noi approfondiremo, cercheremo di capire in quest'ora di chiacchierata senza troppe pretese che cosa fattualmente è avvenuto, che cosa è stato scoperto, che cosa si scoprirà in futuro. Indagheremo naturalmente anche su questo, diciamo, sistematico cannoneggiare la reputazione personale di Berlusconi, del Presidente del Consiglio, per capire se, insomma, non è che c'è dietro, che c'è davanti, cioè che cosa significa, perché volete ammazzare la reputazione del Presidente del Consiglio, perché l'iterazione tutti i giorni, sistematica, eccetera. Beh, volete fare chiarezza su che cosa? Ci sono cose vere sulle quali fare chiarezza? C'è dell'illegale o c'è soltanto, diciamo, del buon gusto, cattivo gusto? Insomma, che tipo di sollecitazione i giornali, ormai non è più solo Repubblica, anche il Corriere della Sera, fanno nei confronti di Berlusconi, e dunque anche loro come si implicano dentro la questione politico, civile, istituzionale, insomma, di un paese appunto in preda un po' alla follia da questo punto di vista. Vabbè, vedremo. Io sottolineerei subito delle incongruenze o delle contraddizioni notevoli. La prima è quella, insomma, la classe dirigente della destra deve decidersi. Io ho sempre detestato le campagne moralistiche contro le puttane, le considero riprovevoli, anche quando le faceva Giuliano Amato, con argomenti francamente reazionari. Insomma, io quelle iniziative contro le puttane che ci sono nei comuni le bloccherei, almeno provvisoriamente, fino a che non si sia stabilita la verità dei fatti. Ecco, e bloccherei anche la distribuzione dei preservativi nelle scuole per le bambine di 14 anni, no? Blocchiamola, questa distribuzione dei preservativi nelle scuole, sulla quale è andato il presidente della provincia di Roma e con grande allegria anche il ministro della Sanità Fazio. Oppure, se non la blocchiamo, se pensiamo che l'educazione amorosa, l'educazione civile, l'educazione razionale, l'educazione del corpo, dell'anima, della nostra gioventù, per dirla con un'espressione anche questa antiquata, nelle nostre scuole debba puntare sul palloncino, beh, allora se facciamo questo, sospendiamo le campagne moralistiche sulle minorenni e sul sesso, per favore. Non facciamo ridere, non ridiamoci in faccia da soli, pieni, spugnosamente pieni di bassa ipocrisia. Bene, comincerei con Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera, e con Carlo Bonini, inviato della Repubblica. Sono entrambi a Bari, stanno facendo il loro lavoro, sono, diciamo, come il grosso delle redazioni giornalistiche dei grandi giornali italiani, in particolare Repubblica, ma anche il Corriere della Sera, sono un po' all'origine del gran bailamme di queste settimane. È una roba che dura da aprile, aprile, maggio, giugno, adesso arriverà luglio, il G8, insomma è una roba dura, è una roba che incide profondamente. Forse inevitabile, come immagino diranno loro, perché il loro lavoro è il loro mestiere, forse un po' truccata da campagna politica, insomma, ecco, perché non ci sono solo le notizie, c'è il modo di usarle, di ripeterle, di costruirle, di coccolarle, però sta a loro prima di tutto dirci, poi ne parleremo con Carlo Rossella, presidente della Medusa Film, oltre che con loro naturalmente, e con Maurizio Belpietro, direttore di Panorama. Sta a loro, a Fiorenza Sarzanini prima e Carlo Bonini poi, dirci che succede a Bari di questi tempi, se sono confermate le notizie, che cosa significano secondo loro le notizie, cioè c'è della gente Che vuole farsi bella e presentarsi dal Presidente del Consiglio in occasioni, diciamo, mondane, in feste che lui convoca a casa sua, con delle belle ragazze, magari non ce le ha sotto mano e paga loro un rimborso e le porta, insomma, in quelle circostanze francamente un pochino degradanti alla festa, o c'è di più? Sarzanini. Buongiorno, sì, buongiorno. Sicuramente c'è questo e probabilmente c'è di più, visto che le ragazze vengono, a quanto appunto ha sostenuto Patrizia D'Addario e poi anche le altre che dopo di lei sono già state ascoltate e hanno appunto confermato di essere state invitate a Palazzo Grazioli in cambio di soldi, c'è di più perché loro erano consapevoli, quindi non è un trasferimento in una festa dove non si sa dove si va. L'accordo veniva preso qui a Bari e loro erano consapevoli, e quindi questo fa presumere che anche a Palazzo Chigi fossero consapevoli del fatto che Tarantini, che a quanto pare arrivava ogni volta con due o tre ragazze diverse e dava loro precise disposizioni, perché con la sua macchina entrava direttamente a Palazzo Grazioli, macchine con vetri oscurati che venivano appunto tirati su, ragazze alle quali veniva date disposizioni su come dovevano vestirsi e come appunto dovevano comportarsi. Sì. No, ma questo, Fiorenza, l'abbiamo letto tutti ed è il frutto importante del tuo lavoro. No, quello che volevo capire è questo, cioè si tratta di un imprenditore della provincia italiana, di una provincia anche molto godereccia come la Puglia, come Bari, eccetera, che decide di farsi bello, di coltivare un'amicizia nata in Sardegna, sempre in quelle villone lì, che insomma una volta si andava a Bogliasco, ma comunque è nata lì nella Costa Smeralda, che è il terreno, la capitale del peccato, vuole coltivare questa amicizia e quindi una volta porterà una bella ragazza che non accetterebbe neanche una lira di rimborso, una grande attrice, un'altra volta porta delle ragazze così un po' più rimediate, gli rimborsa. È così o è il fornitore della Real Casa, il lenone personale del Presidente del Consiglio? Perché le due cose sono diverse, la seconda naturalmente va approvata. Certo che va approvata, ma l'inchiesta non è nata un anno fa, l'inchiesta è nata da poco ed è nata dalle intercettazioni di Tarantini. Al momento c'è che Tarantini porta queste ragazze e alcune di queste ragazze raccontano di essere poi rimaste, quindi sembra di capire che non solo lui le porti a Palazzo Grazioli per fare le comparse, da comparse queste ragazze poi alcune, o quantomeno una certamente, racconta di essere diventata attrice principale, quindi bene. Adesso bisogna vedere, certo, se lui offre e poi c'è una risposta consapevole di accettazione di questa offerta, c'è una ragazza che dice di sì. Carlo Bonini, ci sono novità, a parte quelle che sappiamo e che Fiorenza ci ha lamentato adesso, sul terreno, sul campo? Ma io credo che novità ce ne saranno, continueranno ad essercene. Insomma, io ascoltavo attentamente quello che diceva Fiorenza, su cui sono assolutamente d'accordo, la domanda che facevi prima. Credo, insomma, se provo a risponderti in questo modo, in modo che anche ci si capisca. Io ho la sensazione che da un mese a questa parte il Presidente del Consiglio sia entrato in un pericoloso cono di ricattabilità. Il Presidente del Consiglio, per ragioni che sono soltanto sue, attengono alla sua privacy, diciamo così, ha uno stile di vita, ha condotto uno stile di vita a quello che ha ritenuto opportuno. Questo, come dire, lo ha collocato al centro di un set di cui non controlla più le comparse. Quelle che fino a ieri sono state delle comparse in questo set si sentono, ritengono, pensano di poter improvvisamente lavorare da protagonisti, e quindi oggi è Patrizia, domani potrebbe essere un'altra ragazza ancora, noi oggi siamo a Bari, potremmo trasferirci armi e bagagli, sto dicendo per dire, domani in un'altra città d'Italia, perché potrebbe uscire un'altra ragazza ancora. Questa è la situazione in cui siamo. E rispetto a questa situazione, che va avanti da tempo, io credo che né il Presidente del Consiglio non abbia ancora detto una parola chiara. Però Bonini, scusi Bonini, io sono d'accordo sul fatto che è un problema quello che lei chiama il cono di ricattabilità, cioè insomma la oggettiva situazione in cui si è messo il Presidente del Consiglio con delle feste insomma governate in modo un po' sciatto, diciamo, ecco. Però Però il punto è questo: quando voi gli chiedete di rispondere a delle domande, naturalmente è tutto legittimo. La Repubblica sono 3 mesi che stampa tutti i giorni in una pagina le 10 domande di Giuseppe D'Avanzo al Premier. Però un punto importante è questo. La domanda vera, nel caso Noemi per esempio, era se il presidente si era ammattito, cioè se andava con una minorenne. Nel momento in cui lui risponde no, a me sembra che tutte le altre domande siano assolutamente fatti suoi. Cioè, andare appresso alla rottura di un matrimonio, a un divorzio, a uno stato d'animo esacerbato, chiedergli ma lei sta male, ma lei quando è che ha conosciuto Noemi? E anche qui, anche adesso, cioè, il punto è, lei ha invitato diciamo, le putain della Repubblica a Palazzo e le ha pagate? E se la risposta è no e non c'è una prova in contrario, la domanda finisce lì, perché poi le scene di Berlusconi sono un fatto privato. Su questo credo che lei sia d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Le scelte private di Berlusconi sono un fatto privato, ma qui c'è una cosa diversa. Per questo dicevo prima, siamo partiti da Noemi, siamo a Patrizia, e io ritengo che se la situazione non si dovesse modificare si rischia di arrivare altrove, perché qui c'è una cosa in più, cioè qui c'è una, diciamo, una professionista, e c'è un signore che recluta professioniste, non ne recluta due una volta, e questo signore, diciamo, per quello che l'inchiesta accerta, ha accertato, e diciamo, stiamo parlando di Tarantini, tra l'altro in questi giorni più volte ho parlato con i suoi avvocati, più volte ho cercato Tarantini. Tarantini ritiene in questo momento di non dover dire nulla, cioè di non dover dire neppure non è vero. Questo signore, come dire, nell'estate del 2008 diventa un, diciamo, un protagonista. Sì, sì, è un amico di Berlusconi, si diventano amici, insomma, e si coltivano l'amicizia da maschi italiani. Insomma. Gli piace accompagnarsi con le belle ragazze. Sì, il problema è che queste belle ragazze vengono pagate 2000 sì. euro a, diciamo così, a viaggio, vengono reclutate non esattamente in un clima sì, di. Si chiamano escort, amici. Come quelle dei convegni, sì, come le hostess. Vabbè, senta, Bonini, adesso devo chiedere a Rossella questa storia del cono di ricattabilità. Rossella ha partecipato a un sacco di feste a casa di Berlusconi. No, e un sacco di feste, qualche volta sono stato. Vabbè, non un sacco, un sacco. Un sacco, un sacco, un sacco sono tante feste. 4, sono stato 5, qualche volta 4, con delle 6, feste, sì. Due, non lo so. Vabbè, più di una. Più di una, più vabbè, di una. Insomma, più di una. Questo ci fa mettere le mani avanti. No, noi siamo vecchi amici, avanti. Parliamo alla radio, sacco. Siamo trasparenti. Allora, buono insomma, è un buon amico di Berlusconi e lo ha visto in azione con le belle ragazze. Allora, Rossella, presidente della Medusa Film, uomo simpatico, trasparente, divertente e anche così anticonvenzionale. Ci dica come sono queste feste. Beh, allora ve le racconto perché così usciamo dalle. Allora, le feste cominciano in genere verso le 9 di sera, arrivano, ci sono delle ragazze, ci sono dei personaggi noti, ci sono a volte attori, a volte attrici, insomma dipende, c'è un perché a Berlusconi piace, dopo, quando ha tirato giù la Claire del suo lavoro, piace vedersi con delle persone simpatiche, quelli che vuole lui, eccetera, persone giovani con cui parlare, chiacchierare, eccetera, eccetera. Si arriva a casa di Berlusconi, il premier in genere alle 9 non c'è perché è occupato, la festa in genere poi lui arriva, comincia alle 9:15, 9:20 ci siede a tavola. Immagino che farà cucù. No, non fa nessun cucù. In genere una ventina, 20, 25 persone. Insomma, è scherzoso, no? Sì, Berlusconi, ma è scherzoso. È scherzoso, la contro una barzelletta. Fa vedere un bellissimo. In genere mostra subito all'inizio un bellissimo documentario sull'Italia che lui ha regalato a tutti i membri del G8, che sarà poi presentato al G8, eccetera, eccetera. Ma già è da un anno, già che lo fa vedere, molto bello. Un documentario sull'Italia molto fatto in alta definizione. E poi si va a tavola. Berlusconi... la festa c'è un momento di calo, no. Sul documentario, via. No, le diapositive sul sempre documentario un momento di calo, però insomma ti faccio vedere le diapositive del mio viaggio Duomo di Orvieto. Si va a tavola e lì comincia il pranzo che viene continuamente interrotto perché sì. Berlusconi viene chiamato al telefono, certo. Da uno, dall'altro, se ne va, lascia la stanza poi torna. Il pranzo intanto si prolunga, poi ci sono dei cantanti, a volte c'è Mariano Picella, a volte c'è un altro cantante napoletano. Ah, questo sei uno scoop. Una volta c'è un altro maestro cantore. Sì, che suona il tastierista. Una volta c'era Lola Pons che ha cantato, poi c'è una bravissima cantante argentina che è stata perseguitata dai colonnelli che è venuta in Italia. Insomma, ci sono altre, ci sono magari persone che vogliono cantare, che sanno cantare. A volte lui canta una canzone, due canzoni, una canzone. E lui ha una voce stupenda, e lui ha una voce molto, molto bella, forse più bella di quella di Henry Salvador, al quale lui si ispira. Poi racconta qualche barzelletta, non sono mai barzellette scollacciate, tutti ridono, si parla, si discute. Non sono molto mai di scollacciate, non le credo. No, questo glielo dico io. Sì. Io non le ho mai sentite quelle scollacciate. Barzellette quelle da oratorio, da preti, non ci credo. No, barzellette normali, battute, eccetera. Cioè. Dopodiché lui parla di politica, illustra sì. La giornata, no? Perché tutti hanno visto i telegiornali, quindi sanno cosa è successo, e a volte ci sono battute scherzose, cose. Certo, non racconta la politica come alla conferenza stampa, certo, la racconta in una maniera un po' da dietro le quinte. Fa il vantone, si diverte, così e così. Alla fine, quando arriva mezzanotte e un quarto va a dormire festa, pensando alla patria. No, arriva il maggiordomo con in mano dei dossier e dice, gli fa vedere a Berlusconi. Berlusconi manda via tutti e la luce resta accesa fino a di notte, e lascia, perché... No, Berlusconi manda via tutti se ne vanno, punto. Io quando vado a cena a casa di Berlusconi alle 12:15 sono a dormire. Questo è quello che posso raccontare. Posso io delle cene a casa che di lei adora andare a dormire non tanto tardi. No, io vado sempre a dormire alle 10:30-11 di sera. Sì. E per me è già andare. E però quando vado a Berlusconi sono 12:15. Mi è capitato di andare a cene ufficiali noiosissime con dei vecchi barbogi che finivano a 1 di notte e mi sarei suicidato. Sì. È chiaro che a Berlusconi non piace giocare a canasta con dei vecchi barbogi. No, a Berlusconi nel tempo libero piacciono persone simpatiche. Parlo anche della Sardegna, nella quale io non sono mai stato, ma so cosa succede. Quando Berlusconi è in Sardegna, riceve 1000 bigliettini di gente che lo vuol vedere, eccetera eccetera, gente, altri che lo invitano, allora lui magari esce a passeggiare a Porto Rotondo, va a casa di uno, a casa dell'altro, saluta, eccetera eccetera. Alla fine cosa fa? Una volta alla settimana fa un festone per 50, 60, 70, 80, 100 persone, si toglie come dice dalle palle tutti questi che vogliono andare da lui, onorevoli di Forza Italia in vacanza, eccetera eccetera, orchestre, musiche, danze, balli, suoni, e alla fine intanto Topolanek si fa il bagno nudo, che poi nasce la questione del suo pistolino, perché dice che è un fotomontaggio. Allora c'è un fumetto che è uscito adesso lì. Il fumetto dice che Topolanek dice sì, vabbè, sarà anche un fotomontaggio, dice sì, è un po' piccolo, dice, ma con un piccolo burattino si possono dare grandi spettacoli. E adesso almeno questo è quello che ho visto io. E poi non so se questa signora ha visto... Che cosa vuole, insinuare che ci sia dell'altro? No, non c'è dell'altro, ma mi racconto di questa signora, poi è tutto da verificare. Certo. Va bene. Belpietro, io chiedo scusa, ma era prorompente il racconto mondano di Carlo Rossella e non ho potuto interromperlo per nessun motivo. Eccomi, le telefonate che mi arrivano non sono propriamente severe con Berlusconi. Sentiamone un paio e poi parliamone con Maurizio Belpietro e con i nostri cronisti da Bari. Ennio da Roma. Ennio? Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, senta, io mi sono azzardato a chiamare dopo tante parole che hanno sprecato per questa vicenda. Io volevo dire questo, mi sono trovato in quell'ambiente molti anni fa, chiaramente dall'altra parte. E voglio dire questo, non esiste, o perlomeno è sempre esistito, che personaggi mondani, politici o quello che volete voi, nelle riunioni, nelle manifestazioni, nelle feste private o quello che sia, si sono ritrovati comunque in mezzo a persone del genere, di quelle che contatta la signora D'Addario. È normalissimo, credo, perché in quegli ambienti esiste anche questo tipo di attività. Nessuno l'ha mai negato. Adesso non c'è, io non capisco il motivo per cui quando un governo comunque si comporta in maniera comprovata dalla popolazione, si trova sempre una scusa qualsiasi per poterlo attaccare. cioè, mm-hmm. e Berlusconi sicuramente si sarà trovato in questo tipo di manifestazioni, di feste, come chiamatele voi. Però come lui, torno a ripetere, io di personaggi politici in questo genere va bene, di chiaro, lei dice che sono abitudini consolidate nel mondo del potere, che non bisogna farne uno scandalo e che si attacca il governo per cattive ragioni. Giovanni dalla provincia di Lucca. Buongiorno Ferrara. Buongiorno. Senta, io sono un socialista, sono in Sinistra e Libertà, sono un avversario politico di Berlusconi, però in questa vicenda gli offro tutta la mia solidarietà. Sarà perché mi ricorda molto la vicenda di Craxi, ora ci manca solo qualcuno che organizzi delle gazzarre fuori da Palazzo Grazioli. Se mai questa vicenda sottolinea la diversità tra le varie anime della sinistra in Italia, tra la sinistra socialista libertaria e la sinistra purtroppo egemone, con la quale noi facciamo i conti da minoranza, massimalista e veterocomunista. Il problema grosso, secondo me, lo pone a sinistra nei nostri rapporti con questa sinistra che riteniamo diversa da noi. In effetti c'è una emulazione, e qui vengo a Maurizio Belpietro, tra la campagna giornalistica molto potente, molto forte, bisogna dire la verità, molto incisiva, e poi insomma una certa incertezza del Partito Democratico e della sinistra, anche della sinistra radicale. Nessuno ama lanciare un attacco così devastante sulla base di semplici pettegolezzi che non diventano accuse di illegalità, che non, insomma, è piuttosto complicato. Sentiamo prima Belpietro e poi Bonini e Sarzanini. Prego. Premesso che io non sono mai stato, non ho mai partecipato a nessuna festa o cena a Palazzo Grazioli, neanche sono stato a Villa Certosa, quindi non sono un testimone, non posso aggiungere nulla, leggo anch'io ciò che viene pubblicato sui giornali, però credo che il problema sia quello che lei prima ha così spiegato in sostanza, ovvero la campagna giornalistica. La campagna giornalistica che viene descritta come una campagna di verità, di insomma, che punta insomma ad accertare i fatti, se Berlusconi ha mentito, non ha mentito, se ha avuto, non ha avuto, è sostanzialmente, sicuramente legittima, è sostanzialmente una campagna politica, non è una campagna giornalistica, perché se fosse stata una campagna giornalistica lei giustamente ha detto bastava chiedere sin dall'inizio, cioè due mesi fa quando è scoppiato il caso Noemi, se il Presidente del Consiglio avesse avuto dei rapporti sessuali, cioè in sostanza fosse andato a letto con la ragazzina di 17 anni. Ma questa domanda tra le 10 che Repubblica ossessivamente ripete non c'è. Questa domanda non è mai stata fatta, che è la domanda fondamentale in fondo, quella che ci interessa. Non... Vengono fatte tutte domande laterali, maliziose, che dicono ma quando ha conosciuto Berlusconi, Letizia, il papà di Noemi, ma quando la zia, la nipote, la cugina, ma quando è stato, ma perché? Quindi è evidente che c'è della malizia nella campagna giornalistica, legittima ribadisco, cioè non è che sto dicendo che è illegittima la campagna giornalistica, però è evidente che si mira ad andare da qualche altra parte, ovvero si mira a mettere in difficoltà il Presidente del Consiglio su una serie di fatti secondari molto probabilmente, ma certo non si va al nocciolo della questione, così come nel caso Patrizia. Qui la questione è, ma il Presidente del Consiglio ha avuto una relazione con una escort sapendo di avere relazioni con una escort, oppure c'è qualcuno che ha cercato di fare altro, o magari si è imbucata, oppure c'è qualche imprenditore che per accreditarsi ha fatto altro, perché anche lì la questione è fondamentale, cioè se il Presidente del Consiglio ha avuto una relazione sapendo, cioè ha pagato in sostanza una escort, è un fatto. Se qualcuno ha cercato di gettare delle ombre sul Presidente del Consiglio, questa è la vittima. Invece qui abbiamo ribaltato il concetto, non sappiamo ancora se questa signora è attendibile, non sappiamo ancora se l'inchiesta ha un qualche fondamento, anche su questo ci sarebbe poi da discutere, cioè sappiamo tutti come alcune cose sono nate in questo paese, quindi condivido anche l'opinione di Giovanni che da Luca giustamente mi ricorda molto la campagna fatta contro Craxi. Qui è in atto una caccia all'uomo, una demolizione dell'avversario, cioè questo è il tentativo, e quindi prima ancora di domandarsi poi tutto il resto forse sarebbe il caso di fare un po' luce su questo attacco, Bonini. Demolizione. Bonini. Ma io insomma la faccio breve perché questa discussione diciamo su Repubblica, sulle intenzioni, la legittimità, i secondi fini della campagna di Repubblica. Io credo che Repubblica abbia posto una questione molto semplice. Ci sono sono dei comportamenti privati che attengono la sfera pubblica di un paese, ma questo non riguarda solo Berlusconi e l'Italia, questo riguarda, diciamo, tutte le democrazie occidentali. Oggi Filippo Ceccarelli sul nostro giornale ricorda che negli stessi giorni in cui Patrizia D'Addario avrebbe incontrato il Presidente del Consiglio, il Parlamento approvava una legge sulle lucciole. Cioè ci sono dei comportamenti privati che diventano fatti di rilevanza pubblica, su cui credo che tutti noi dovremmo essere d'accordo, destra e sinistra. Cioè qui non si ripete il pettegolezzo, nessuno sta facendo del pettegolezzo, qui non si sta spiando la vita privata del Presidente del Consiglio dal buco della serratura. E oggi il fatto che siamo qui, il Corriere della Sera, Repubblica, non so, vogliamo dire che c'è un complotto, come dire, un gigantesco complotto che parte dai giornali conservatori inglesi e arriva fino al più grande giornale della borghesia italiana, primo giornale italiano, il Corriere della Sera. Ora, secondo me intrattenersi su queste questioni è sciocco, se non si vuole vedere la sostanza di questa questione. La sostanza di questa questione è che queste vicende diventano vicende di rilevanza pubblica perché ci sono dei comportamenti del Presidente del Consiglio che hanno rilevanza pubblica. Insomma, non vedo l'illegittimità o l'ossessività o la malizia di questa campagna. Ne vedo francamente, i giornali stanno facendo quello che in qualunque altra democrazia occidentale è stato fatto. Insomma, i nostri giornali sono stati riempiti, i nostri giornali, per settimane, per mesi, quello sì, del pettegolezzo sul presidente francese Sarkozy. E lì non si parlava di escort, allora quello è pettegolezzo, quello, come dire, è il glamour, è il rosa, è il pettegolezzo della vita dei potenti. Qui si sta discutendo di cose purtroppo un pochino più serie, almeno apparentemente più serie, salvo prova del contrario. Devo dire insomma che i francesi difendono il territorio specifico non solo della privacy ma anche proprio l'inviolabilità del potere con altri mezzi, e non credo che debbano essere additati. Ad esempio, quando Mitterrand ebbe dei problemi, la figlia fuori dal matrimonio eccetera, ci fu lo scandalo dell'Esecut dell'Eliseo, misero sotto ascolto fior di giornalisti, bloccarono e fecero quasi impazzire Jeanne d'Hernalier. Lo Stato in Francia combatte, in Italia no, si divide in mille pezzi, fa 55 giochi, siamo un paese così rinascimentale. Fiorenza Sarzanini, lei è d'accordo fondamentalmente su quello che ha detto Bonini, cioè noi stiamo denunciando una situazione civile degradata, non facendo pettegolezzi? Certamente, anche perché voglio dire una cosa specifica che riguarda proprio le domande. Io non credo che le domande poste dal quotidiano della Repubblica al Premier siano un'invasione nella sua vita privata, dal momento in cui la prima a porre queste domande pubblicamente è stata la moglie del Premier. È persona privata. L'ha fatto pubblicamente, quindi se la moglie lo fa pubblicamente non si capisce perché sia quasi un reato di lesa maestà il fatto che poi ci sia un giornale che gira queste stesse domande. Questo è il primo aspetto. Se si tratta appunto di domande, non dico tutte, ma almeno a qualcuna, proprio perché appunto si tratta di domande normali, alcune attengono alla privacy del Presidente, altre no, quindi il Presidente del Consiglio avrebbe potuto rispondere. Ora, al di là di poi questo aspetto appunto delle domande, qui non c'è una campagna giornalistica. I giornali, la Repubblica, il Corriere della Sera... Sarzanini, mi scusi, questa non... Così come non con tutta la modestia e l'umiltà del caso, non mi sentirei di avallare giudizi sbagliati, tipo che c'è un complotto, oppure che il Premier è una santarellina. La campagna c'è. No, la campagna c'è nel senso che c'è, diciamo, un'attenzione esasperata, sistematica e una volontà di colpire con feroce inimicizia la reputazione di un uomo pubblico. Perché sa, tutto dipende poi da come le cose, lo sappiamo, no? Siamo vecchi, sì, professionisti, vengono collocate in pagina, commentate. Di colpire un uomo pubblico, allora forse... No, magari è suffragata da elementi che la giustificano, questo, cioè, sì, però c'è una campagna giornalistica, come no? Allora io mi aspetto che... visto che appunto anche il direttore Belpietro diceva non è detto che uno debba sapere chi partecipa alle proprie feste, chi, se qualcuno si imbuca, sinceramente l'idea che qualcuno possa imbucarsi a Palazzo Grazioli è un po', diciamo, surreale o quantomeno preoccupante, perché se a Palazzo Grazioli ci si può imbucare mi pare quantomeno preoccupante anche, diciamo, rispetto ad altri aspetti in che più con un registratore in più con un registratore, esatto, Gaetano, che... Gaetano da Frosinone, scusi Sarzanini, Gaetano. Buongiorno. Devo dare qualche telefonata che alla fine è arrivata anche critica. Gaetano. Buongiorno Ferrara, intanto buongiorno, complimenti per il suo intervento ieri a Extra Large, rimandato poi dalla Zanzara, molto preoccupato sulla vicenda. Ma grazie. Io dico che sono veramente deluso e costernato dalla situazione che si sta verificando nel nostro paese. Il quadro mi sembra abbastanza chiaro e coerente con quella che Guzzanti aveva definito mignottocrazia. Cioè parliamo di Noemi, adesso le ragazze di Bari, abbiamo avuto qua la vicenda delle tre fare attacca il nostro Presidente del Consiglio che parlavano di vallette, le candidature alle europee in cui le vallette si sono proposte, per non parlare poi di altre candidature che in qualche caso hanno raggiunto anche il ruolo di ministro nel nostro governo. Allora, quello che voglio dire io è che è veramente sottile il confine tra privato e pubblico con un personaggio come Berlusconi, che ha costruito tutta la sua fama, la sua popolarità anche attraverso l'ostentazione della Gaetano, della secondo lei privata. Scusi, secondo lei che dovrebbe fare Berlusconi? Fare un discorso al paese, spiegarsi meglio, oppure smettere Berlusconi di parlarne? Dovrebbe intanto dire, ammettere la sua, come dire, la sua debolezza verso la frequentazione il gentil sesso, ma questo lo farebbe femminile. Volentieri. Ma in questo prego. Sì, no, non dica, dica. In questa frequentazione fatta in questo modo che è veramente un po' squallida, nel senso, in certi momenti ho la percezione che si tratti, abbia un po' la sindrome del brutto anatroccolo, che evidentemente quando era ragazzo aveva qualche difficoltà nelle relazioni col mondo femminile, adesso ha riconquistato il potere, la fama, la gloria, l'esercita. No, non pare, ha avuto due bellissime mogli, cinque figli, una vita, sì, sì, sì, diciamo, no, ma non amorosa. Difficoltà di... Non credo che sia quello il problema di Berlusconi. Io, comunque no, aspetti Gaetano, devo dare la parola un momento a Franco che la chiede da Ascoli Piceno e poi tornare in studio. Franco. Sì, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, mi sente? Sì. Ah, ecco, niente, io volevo fare solo una considerazione sull'intervento che ha fatto Carlo Rossella, no? Mi pare che abbiamo capito tutti che la festa cominciava quando Carlo Rossella se ne fosse andato a mezzanotte, no? Questa è una cattiveria, devo dare subito a Rossella la parola per risponderle. Beh, uscivano tutti e non restava nessuno, restava solo il Presidente del Consiglio. Se lei ha altre informazioni me le dia, se lei pensa questo, che cominciava io quando non, io uscivo. Mi sembra una battuta, la sua mi sembra una battuta goliardica, io che sono un anziano goliardo e devo dire che mi diverte molto, è come al bar fra amici, io penso che lei sia davanti a un caffè, io sono davanti a un caffè, ecco, e ce lo beviamo adesso insieme. Tra poco grazie. Poi dovremo dare le strade in diretta, ma Rossella, che dovrebbe fare Berlusconi secondo lei adesso? Non perché il problema di come si difende un premier è un problema politico per la Repubblica. Allora, io credo che tutte queste dichiarazioni è l'ultimo utilizzatore della merce, quindi non c'è niente di penalmente rilevante. Oppure l'altra cosa che ha detto Ghedini ieri, con tutto il rispetto per l'avvocato Ghedini che fa un mestiere difficile, dice ma che non deve pagare nessuno, potrebbe avere grandi quantitative di ragazze gratis. Ecco, tutto questo è assurdo. Intanto perché un Presidente del Consiglio si fa difendere dall'avvocato? Un Presidente del Consiglio si deve fare difendere da un genio della politica, da Rahm Emanuel. Si deve far difendere da gente che ha gli attributi, che sa cos'è il Parlamento, la classe dirigente, i giornali. Gli avvocati sanno solo delle stupidaggini che servono nelle aule dei tribunali. scusi, è lo secondo me dovrebbe fare un po' come Clinton. Ma lo congedi l'avvocato Chedini. Fare una bella intervista in cui spiega le cose, dice: a me piacciono le donne, non sono io che cerco le donne, sono le donne che mi cercano, tantissime donne mi cercano, non ho bisogno di pagare le donne, non ho mai pagato una donna, cosa che è verissimo. Deve dire tra l'altro hanno beccato Clinton l'altra sera lì in Argentina, deve dire che lui da 7 anni, come ha detto in un'intervista De Bortoli, deve dire che lui da 7 anni non aveva più niente a che fare con la moglie, erano di fatti separati in casa, cioè di fatto Berlusconi è uno scapolo, quindi può fare quello che gli pare a casa sua. Quindi mi sembra che un outing, diciamo, molto molto un outing politico personale non sarebbe mica male, magari una bella intervista al Foglio con Giuliano Ferrara, riprendendo perché anche i temi del suo articolo di ieri. Posso dare del lei in questa fase così ufficiale? Mi dia del lei che è meglio. Va. Un outing, allora beh, con la prossima settimana finirò questa trasmissione che mi ha fatto molto godere e che mi è piaciuta molto, eccetera, e che mi ha dato molte soddisfazioni. Però vi devo confessare una cosa: le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Vabbè, torniamo alla realtà. Alla realtà, e sentiamo cosa da dire Enzo dalla provincia di Macerata. Pronto? Enzo, le strade in diretta sono finite. Lei può parlare liberamente. Sono d'accordissimo sulle strade in diretta che sono micidiali. Ok. Poi, tre cose velocissime. La delusione totale per questa sinistra che ormai è a livello di pettegolezzo. Non riescono con la politica e stanno tentando questa via. Io spero che per Repubblica ci sia un crollo totale della tiratura, delle vendite. Purtroppo il contrario quello che sta succedendo. Allora, purtroppo adesso ho manifestato con questo avverbio la mia estrema faziosità, ma dico no, questa campagna rende in termini di copia, si figuri un po', tutti i giorni belle ragazze scosciate in prima pagina, A livello di chi questi giornali. Ma io spero quello che era successo con l'Espresso, quando dopo 52 settimane all'anno, 52 numeri per 520 numeri con Anselmi direttore e la faccia di Berlusconi, gli erano crollate le vendite, anche i lettori si erano stufati di questo. Vabbè. Poi, l'ultima cosa le chiedo. Prego. C'è un peccato originale che non viene più ricordato. Il gruppo La Repubblica, L'Espresso ha il dente avvelenato con Berlusconi, perché Berlusconi ha fatto quello che loro avevano in testa di fare 25 anni fa. Ricordatevi Rete 4, i 400 miliardi di debiti di 25 anni fa. Una vecchia inimicizia c'è, si sente, certo, non c'è benevolenza, diciamo, non gliene passano una. E non gliela perdoneranno mai. Questo. Però fa anche un po' parte del mestiere del fare i giornali, insomma, stare un po' attenti, vigilanti. Ecco, io non credo nei giornali sentinelle contro il potere, eccetera, tutte balle, perché poi i giornali trafficano in quattrini, investimenti, capitale, sono parte del potere anche loro. E i giornalisti non sono indipendenti, sono dipendenti dei giornali, cioè sono a libro paga degli editori. Quindi io non partecipo alla retorica, però obiettivamente se c'è una notizia dovrei pure pubblicarla, no? È un fatto oggettivo. Belpietro, torniamo alla questione di fondo, che stiamo in chiusura. Cosa secondo lei dovrebbe fare Berlusconi? Primo, fregarsene, cioè a questo punto dire: non è che io devo fare il G8, ragazzi, devo fare il Consiglio dei Ministri, devo fare forse le riforme, c'è una crisi economica e finanziaria, scusate molto, ma io adesso d'ora in avanti blackout totale per quanto mi riguarda sulle testimonianze delle varie D'Addario, eccetera eccetera, se ne occupino chi se ne deve occupare, io non rispondo più. Oppure invece fare un discorso di fondo, non di dettaglio come avvenne a Porta a Porta, che uno sta lì, dice una mezza bugia, altera un fatto, cioè, no, ma un discorso su se stesso, sul suo privato, sul suo modo di vivere, eccetera, magari anche insomma con le scuse per una certa sciatteria nel convocare queste feste che poi hanno determinato questi, queste turbolenze, eccetera, eccetera, ma insomma cercando di essere persuasivo, convincente verso gli italiani, che sono il vero interlocutore di un Presidente del Consiglio che ha vinto le elezioni a capo di una coalizione politica. Ma guardi, io temo che se anche Berlusconi facesse un discorso franco, raccontando anche alcuni fatti e illuminando alcune ombre di tutta questa vicenda, la campagna non finirebbe, perché a differenza di quanto credo hanno detto alcuni colleghi prima, la campagna giornalistica c'è, è evidente che c'è una campagna giornalistica, altrimenti non staremmo a discuterne da due mesi, ma anzi è una campagna giornalistica che va avanti da oltre un anno, perché non dimentichiamoci che questa vicenda nasce tutto sommato con la storia delle intercettazioni di Sacca lo scorso anno. E lì si è capito che si poteva cercare di mettere in difficoltà Berlusconi non sulle questioni politiche, non sulle questioni giudiziarie che alla fine non hanno portato da nessuna parte, ma sulle questioni private. È da lì che quindi nasce tutto. Ora, che sia una campagna maliziosa è evidente, perché scusatemi, le 10 domande, ma ve le siete lette bene con attenzione, le famose 10 domande, dice quando ha conosciuto il padre di Noemi e quante volte l'ha visto e dove potrebbe descriverci che tipo di rapporti la legano a Letizia. Cioè c'è una meticolosità, una invadenza nella vita privata. Teniamo presente che lì non c'è un reato, ma non c'è nemmeno l'ombra di un comportamento scorretto. L'unica domanda che si doveva fare è quella che ho ribadito prima, si doveva domandare quali erano i rapporti tra lui e la ragazzina di 17 anni, fine. Dopodiché se la risposta è quella o ci sono altri argomenti o si passa oltre. Invece il tentativo è quello di gettare delle ombre e continuare la campagna. La campagna quindi va avanti, non si concluderebbe se domani Berlusconi dicesse: sapete che vi racconto la mia vita privata, io le mie vicende matrimoniali, sono di fatto separato da mia moglie non so da quanti anni, quindi ognuno di noi conduceva una propria vita privata, io sono scapolo, non sono scapolo, mi ho fatto quello che ho fatto, non ho nulla di cui vergognarmi, ma questa forse ho commesso qualche errore, vi racconto anche quali, non lo so, io non sono a conoscenza dei fatti del Presidente, ma non finirebbe lì, continuerebbe, anzi sarebbe elemento ulteriore per alimentare questa campagna. Quindi siamo condannati a questa sindrome, diciamo. Io penso che Berlusconi debba dire: io devo fare il G8, la signora D'Addario verificheranno e verificheremo in tribunale se dice la verità o non, farò quello che devo fare dopo il G8, perché è quello l'obiettivo, cioè riuscire a mettere in difficoltà il Presidente del Consiglio attaccandosi a qualsiasi suo comportamento privato, che sia legittimo o che magari generi qualche confusione, e criticarlo da questo punto di vista. Quindi, superato il G8, probabilmente Berlusconi potrebbe anche parlare e raccontare, ma temo che se lo facesse prima sarebbe comunque oggetto di altre critiche, moltiplicherebbe di altri attacchi, e su qualsiasi sua virgola o parola sicuramente verrebbe messo in difficoltà. Va bene, abbiamo finito il tempo, grazie al grande e magnifico Carlo Rossella, Fiorenza Sarzanini, a Carlo Bonini, a Maurizio Belpietro, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrena, in regia Paolo Corleoni, Giorgio Mattei, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Ci sentiamo lunedì prossimo alla stessa ora, baci.